Buonasera, benvenute a tutte le signore, a tutti i signori, grazie di aver aderito al nostro invito. Saluto con particolare affetto la dottoressa Gaia Caroli, la dottoressa Paola Bassetti, storica dell'arte. No, devo pensare perché ho una serie di cose che volevo raccontarvi in pochissimi minuti e devo utilizzare al meglio il mio tempo. È un'iniziativa partita appunto dall'Associazione Cristallo che conoscete e questa sera però è una serata informativa che si è voluta tenere qui in questa biblioteca per tanti motivi, ma uno principalmente perché questa biblioteca ha una, così, sempre avuto una vocazione di testimoniare, documentare il territorio, quindi anche la città. E ha raccolto in questi anni anche queste video interviste e fotografie, immagini, libri, memorialistica, tutto quello che può servire per ricostruire una storia o più storie che riguardano questo territorio. L'idea appunto che poi vi illustreranno le due nostre ospiti è un'idea che permette di leggere anche la città, quindi di dare delle occasioni alla biblioteca di poter offrire al pubblico un modo diverso per approfondire certi argomenti, quindi non solo partecipando e aderendo direttamente all'invito che verrà fatto dall'Associazione Cristallo, ma anche c'è un invito da parte della biblioteca di tornare anche qui da noi e di vedere quello che noi possiamo offrire come letture, come testimonianze. Quindi conoscere vari aspetti e l'ultimo appello che faccio è anche quello di regalarci delle testimonianze, perché negli anni abbiamo sempre cercato di integrare, di arricchire la nostra raccolta di video interviste, sono tutte persone che si sono offerte, che hanno aderito ai nostri progetti, ma anche la sezione memorialistica, quindi tutta quella parte che riguarda la raccolta di ricordi, di sensazioni, di emozioni, ma che in un certo senso sono sempre più una parte importante anche nella ricerca, nell'indagine storica a cui gli stessi studiosi fanno spesso ricorso. Più tardi vi leggerò poi alcuni brani tratti da un libro che è stato uno dei primi che mi è capitato fra le mani nel filone della memorialistica e del ricordo di una signora che forse qualcuno di voi avrà incontrato, conosciuto, anche perché questa signora ha abitato proprio nel quartiere e nelle vie delle semirurali, oppure in via Novacella, in via Dalmazia, ecco, quindi la zona che riguarda poi questa scoperta e questa visita che verrà fatta. Io ringrazio anche l'Associazione Cristallo perché si è spostata anche in questa biblioteca e lo staff della stessa associazione, come lo staff della biblioteca, che non si tira mai indietro quando si tratta di fare qualcosa di nuovo a favore del pubblico e dell'utenza. Grazie. Buonasera a tutti, sono Gaia Carroli, la direttrice del Teatro Cristallo. Da subito anch'io voglio ringraziare Valeria Trevisan per ospitarci in questa biblioteca, per averci offerto questa cornice che per noi è un po' insolita, ma che ci dà l'occasione per spiegare bene un evento che insomma, ha delle caratteristiche di attinenza, di vicinanza e avvicina i nostri due enti. Il Cristallo è certamente un teatro, vedrete qui anche abbiamo portato un po' di materiale per la stagione che sta per partire, ma è primariamente un'associazione culturale e come associazione culturale abbiamo degli obiettivi specifici, statutari, compresi appunto nel nostro statuto, e fra questi c'è la conoscenza del territorio, offrire percorsi e riflessioni di conoscenza del territorio. L'ottica che vogliamo offrire è quella l'ottica di un'appropriazione da cui scaturiscano vivibilità e una maggiore comprensione di alcuni spazi urbani che magari finora non sono stati compresi del tutto. L'evento che andiamo a presentare stasera si chiama Tutta tua la città, trovate la brochure sulla sedia ed è un nuovo percorso che iniziamo quest'anno per la prima volta. E cos'è Tutta tua la città? È una vera e propria visita. all'interno della città, e partiamo quest'anno dai quartieri che sono più vicini al Cristallo, quindi l'Europa Novacella e il Don Bosco. Sarà una passeggiata guidata da un Virgilio straordinario, che è la qui presente Paola Bassetti, che sarà a sua volta accompagnata da altri esperti. Ogni tappa del percorso, poi vedrete, ma Paola vi spiegherà benissimo le tappe, saranno spiegate da alcuni esperti che hanno una competenza specifica. La passeggiata esplorerà luoghi che sono lontani dai circuiti turistici consueti di Bolzano, quindi non andiamo in centro, appunto, ma andiamo a scoprire alcuni luoghi che si snodano fra il quartiere Don Bosco, da cui partiremo, per arrivare poi al conventino accanto al Teatro Cristallo, che forse avete visto, c'è una bella vigna e c'è questo conventino che magari in pochi conoscono. La curatrice di tutto questo percorso, appunto, è Paola Bassetti, che è anche membro del nostro comitato culturale dell'associazione da un annetto poco più. Io la ringrazio, perché senza di lei chiaramente questo percorso non sarebbe possibile. Ho da fare un altro paio di ringraziamenti, innanzitutto Gianni Gaetano, un nostro socio, che è autore della maggior parte delle fotografie che vedrete stasera nel PowerPoint. Ringrazio i nostri partner dell'iniziativa, fra cui appunto chiaramente la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, ma anche la Heimatschutzverein, l'Archivio Storico della Città di Bolzano, la Residenza Maria Heim e anche il FAI, che ci sta aiutando con la promozione dell'evento. Io vi aspetto tutti, se possibile, il 6 ottobre, che è la data della passeggiata. La partenza sarà dal Parco delle Semi Rurali alle 15:30. Cedo la parola a te, Paola. Buonasera, innanzitutto non sono Virgilio e men che meno Beatrice, e comunque sicuramente ho avuto il piacere e l'onore di collaborare con l'Associazione Cristallo e nella fattispecie con il Comitato Culturale per mettere a punto un percorso nuovo accanto a quelli che già esistono da anni e sono ampiamente collaudati, come Madre Terra, come Sulle Orme di Ulisse, iniziative che sicuramente avrete avuto modo di seguire o perlomeno di sentire nominare, a cui è stata aggiunta questa, è denominata appunto Tutta tua la città. Non è che sia un'iniziativa, come posso dire, originale o di grande genialità, visite alla città, visite a luoghi normalmente chiusi, come per esempio fa il FAI, percorsi legati ai luoghi della memoria con cartine guidate, come pubblica l'Archivio Storico della Città di Bolzano, già ci sono. Allora, non ci si vuole proporre assolutamente come doppione, casomai, e su questo è stato naturalmente chiarito in origine, casomai offrire una sorta di partnership, un punto d'appoggio, un settore di approfondimento che si allarghi e che non veda sempre e comunque il centro storico o l'edificio antico come luogo di visita o di appropriazione culturale, ma anche tutto il resto della città, che può avere o non avere residenze, resti antichi, antiche dimore, ma può avere memorie del passato più o meno recente, altrettanto interessanti e altrettanto importanti per il cittadino, che quanto più conosce la propria città, quanto più poi la può vivere, la può amare, la può apprezzare, e questo vale anche per i quartieri periferici, e nessuno me ne voglia, ma credo che Bolzano offra delle periferie che nessun'altra città è in grado di offrire come qualità abitativa e come spazi di vivibilità, con tutte le pecche e con tutte le negatività che possiamo anche andare a discutere. Fatta questa premessa, Io non sono una tutologa, quindi riassumerò le tappe attraverso delle immagini montate sul PowerPoint, le tappe che andremo a toccare il pomeriggio del 6 ottobre, che è una passeggiata ma che si avvicina più a una camminata, seppur senza dislivelli, perché durerà all'incirca 3 ore e comincerà appunto nel parco delle semirurali dove si trovano i resti di Santa Maria in Augia e si concluderà accanto alla chiesa di Regina Pacis, dove c'è questo famoso, insomma, conventino di via Novacella. Poi ne parleremo. Dicevo, non sono una tuttologa, tant'è vero che questa passeggiata guidata è a più voci. Le voci che prenderanno parte alle spiegazioni sono Diego Del Monego, che nella fattispecie si occuperà della zona di Piazza Matteotti, Pio Fontana, che ci racconterà un pochino la vicenda del cristallo, Don Olivo Ghizzo, che invece ci illustrerà un po' le vicende della parrocchia di Regina Pacis, Armand Mattivi, che è diciamo il padrone di casa del conventino di Novacella, e la sottoscritta, che accompagnerà queste visite guidate con dei riferimenti particolari a due cose peraltro molto distanti fra loro, che sono le case, le molto discusse case di via Cagliari degli anni 70 e la residenza di via Novacella. Il tutto è ho dimenticato qualcuno? Ho dimenticato, importantissimo, Carla Giacomozzi dell'archivio storico, che si occuperà di Santa Maria in Augia, e Luigi Caneve che si occuperà del fiume Isarco e dei suoi aspetti botanico-naturalistici, che ci sembrava interessante inserire in un percorso che normalmente non prevede questo tipo di aperture. Detto questo, comprende 6 tappe il percorso ed è accompagnato da una brevissima descrizione, accompagnata da una relativa fotografia significativa. In questo caso è tutto visibile, percorribile normalmente passeggiando per la città, anche se forse non sempre alziamo gli occhi e guardiamo bene, e soltanto un edificio, cioè questo conventino di via Novacella, è normalmente chiuso al pubblico. Ci fu una apertura fai lontana nel tempo, almeno di una decina d'anni fa, dopodiché non è stato più ufficialmente aperto o visitato, se non chi personalmente ha fatto una richiesta. Comincerei quindi questo giro. Per chi non potrà venire il 6 ottobre per motivi vari, anche magari per la faticosa lunghezza, o viceversa per rinvogliare a venire invece a vedere e a sentire qualche cosa di più quel pomeriggio, sperando che non diluvi. Allora, punto di partenza, il parco delle semirurali, così conosciuto e così denominato dalla sua inaugurazione avvenuta nel 2007, dopo che nel 1986 iniziarono gli scavi per appunto ampliare il quartiere, ormai già a buon punto nella sua edificazione, il quartiere Don Bosco, e durante gli scavi sono venuti alla luce dei resti che, diciamo, con l'approfondimento poi e l'intervento degli archeologi si sono rivelati essere dei resti di importanza straordinaria. Sono i resti dell'antica canonica di Santa Maria in Augia, Santa Maria in der Au, in der Höhe, che vuol dire palude, che risalgono sono al 1166, cioè risalgono presumibilmente addirittura prima della fondazione della città, che si presume possa essere indicativamente collocata intorno al 1180, comunque intorno alla fine del 1100. Quindi anche il quartiere Don Bosco, spesso ritenuto ai margini sia dagli abitanti della città sia dagli abitanti del quartiere stesso, molte volte hanno dentro di sé, dentro il quartiere, la fortuna di possedere dei resti antichi, ancora non del tutto studiati, che erano stati anche persi nella memoria fino al ritrovamento nel 1986, ovvero si sapeva dai documenti dell'esistenza di questo luogo, ma non si sapeva per esempio l'ubicazione esatta, cioè non si era capito che fosse così fuori dal contesto cittadino, dal contesto urbano. E quindi una visita guidata, ce ne sono, ma un accenno partendo da questi scavi era d'obbligo, perché il quartiere Don Bosco vanta appunto questo ritrovamento estremamente importante. Quello che noi vediamo soprattutto in fotografia è assai poco leggibile, un po' meglio va quando si percorrono le passerelle costruite apposta per vederlo. Poi lì c'è una bella leggenda con un disegno della ricostruzione. Era una chiesa, era presente una chiesa niente meno che a tre navate con tre absidi, un chiostro annesso, e questo ce lo raccontano i resti effettivamente, e presumibilmente degli edifici di servizio che servivano ai monaci, che servivano agli abitanti del convento, che aveva funzione di diffondere naturalmente il culto e la preghiera, ma aveva anche funzione di accoglienza, accoglienza dei viandanti e accoglienza soprattutto dei pellegrini, quindi una funzione importante. Che cosa è successo a questo luogo? Vedete nella didascalia, 1166, anno della fondazione, documentato, spostato nel 1406. Che cosa vuol dire spostato? Vuol dire che, basta la freccetta? Vuol dire che il convento era ubicato in una zona già al tempo paludosa e alluvionale, tra il fiume Isarco, o meglio, qui c'è una freccetta, tra il fiume Isarco nelle vicinanze del fiume Talvera. E diciamo, da questa antica cartina del 1541, se rirecupero la freccetta, ecco, non ho il mouse, ecco, questa zona che vi indico, in questa che è considerata la più antica veduta della città, 1541, che poi ha una rilevazione tecnica dovuta a una grossa inondazione dell'Isarco che ha creato non pochi problemi alla sopravvivenza della città e dei suoi abitanti. E apro e chiudo una parentesi: la storia delle acque e dei fiumi e del loro rapporto con la città di Bolzano è stata studiata, in parte ho fatto la ricerca anch'io, e sono emerse delle notizie, oltre che dei riferimenti iconografici, estremamente interessanti, che varrebbero una chiacchierata a parte. Detto questo, grazie del mouse, mi trovo meglio. Detto questo, è l'unica iconografia, è l'unico disegno che ci dava un'indicazione abbastanza esatta, tutto sommato, dell'ubicazione della canonica, che è stata letteralmente e continuamente disturbata dalle alluvioni fino a venire quasi spazzata via, appunto nel 1406, e dovendo rispostare e rifondare il luogo, per fortuna in una base molto sicura, che era l'allora già castello di Mainardo II di Tirolo, oggi abbazia di Muri Gries in piazza Gries, che oggi un aspetto fondamentalmente cambiato, ampliato, diversificato. Quando gli agostiniani di Santa Maria in Augia, fondatori del convento, si spostano, trovano la torre che noi ancora oggi vediamo, la torre merlata, mentre tutto il resto del complesso è frutto dei rifacimenti dei secoli successivi. Quindi, come anche avvenuto alla Casa dell'Ordine Teutonico, più o meno negli stessi anni, che era ubicata sempre sulle rive dell'Isarco, sotto il Virgolo, per intenderci, al di là dell'attuale Ponte Loreto, per gli stessi identici motivi si è dovuta spostare in via Wegenstein, dove oggi ancora la possiamo visitare e godere. Per quale motivo si sono stanziati qua questi poveri agostiniani, visto che il terreno non era dei più sicuri? Allora, da un lato perché la fondatrice, o meglio la persona che ha fatto la donazione del terreno e del denaro per fondare questa canonica è Matilde von Valley, che probabilmente, essendo ormai anziana, senza figli, quindi senza eredi, voleva lasciare una fondazione, voleva lasciare una traccia importante di sé e della sua famiglia. Il marito era un conte di Moritz Greifenstein e lo fa appunto cedendo uno dei suoi terreni, che evidentemente erano in quella posizione, per cui lì è stato fondato il complesso. Il secondo motivo è che erroneamente, si ipotizza sempre, gli agostiniani pensassero che questa sorta di isolotto, un pochino difeso in maniera naturale dalla palude, dalle acque dell'Adige e dell'Isarco, potesse essere un luogo considerato abbastanza sicuro, cosa che i fatti hanno dimostrato non essere. Nel convento di Gries, nell'abbazia di Muri, c'è la lapide, la lapide funeraria di Matilde di Valley, che tiene in mano, qui vediamo il dettaglio, il modello della chiesa, che presumibilmente, per quanto in forme semplificate, rispecchia senz'altro il modello originale. Quindi vedete una chiesa con addirittura due torri laterali, una forte cuspide centrale, due ordini di arcate, e quindi una chiesa notevole per proporzioni, per dimensioni e oserei dire per importanza, perché forse a parte la basilica paleocristiana e successivamente alto medievale che si trova sotto le fondamenta del Duomo, non c'era nella conca niente di paragonabile dal punto di vista sacro, quindi ovviamente gettonato e molto richiesto. Il quartiere Don Bosco, sempre più o meno nelle stesse zone, parlo di via Alessandria, parlo di via Parma, parlo poi dopo di via Cagliari, conserva un altrettanto importante, seppur più recente, traccia storica, che è quella del rione delle ex semirurali, ovvero del rione cosiddetto Dux, di cui rimane un esemplare solo soletto fra le nuove costruzioni, in cui da anni è in progetto di istituire un piccolo museo storico, fotografico, documentario, un pochino della storia di questo quartiere. Di fatto, dalla scomparsa del sito di Santa Maria in Augia agli anni 30, ovvero 1935, quando inizia la costruzione di questo quartiere operaio che serviva alla zona industriale, il terreno resta paludoso, incolto e disabitato, e fino appunto alle bonifiche del periodo fascista, che aveva, insomma, tra le cose buone che possiamo forse salvare di questo periodo, tra le poche cose buone, sono proprio le grandi bonifiche che sono state fatte dei territori, non solo qui ma in tutta l'Italia. La storia la conoscete anche voi. Sulla bonifica di questo terreno viene costruito tra il 1935 e fino al 1942, quando la crisi della seconda guerra non permette di finire l'ultimo lotto delle case, viene appunto costruito questo quartiere nell'ottica dell'italianizzazione dell'Alto Adige e della città di Bolzano, voluto dal regime fascista a partire dagli anni 20, e si inserisce nel progetto della cosiddetta Grande Bolzano, che doveva arrivare dai 18.000 abitanti ai 100.000 abitanti, e ci è quasi riuscito. E tra i vari quartieri residenziali in cui la città viene divisa, a partire dalla zona del Monumento della Vittoria, quindi dai quartieri un pochino più eletti e alti, cioè dei burocrati, degli amministratori, degli impiegati, dei funzionari, e parlo di Viale Venezia, parlo di Corso Libertà, parlo di Piazza Mazzini, vengono sviluppati due importanti quartieri che dovevano servire da abitazione agli operai che arrivarono prevalentemente dal nord-est, prevalentemente dal Veneto, famiglie di origine contadina che trovano nel quartiere delle semirurali e in prima battuta nel quartiere Littorio, cioè dove oggi si trova Piazza Matteotti, il quartiere quindi che si sviluppa l'intorno, via Torino per intenderci e parte di via Milano, trovano appunto degli insediamenti abitativi. Prima ancora, cronologicamente, è proprio il rione Littorio con piazza Littoria in memoria della città di fondazione Littoria, che è oggi conosciuta come Latina, attorno al quale appunto si snoda questo quartiere subito nel 35, quindi quando diciamo è in costruzione e in messa in opera la zona industriale poco lontana, viene edificata questo quartiere cosiddetto ad alta densità, parola che a noi oggi fa un po' sorridere perché consideriamo l'alta densità abitativa qualcosa di un po' diverso. Di fatto si tratta di un quartiere che si snoda in maniera abbastanza ordinata, anzi ordinata, intorno a un asse viario centrale, quello di via Torino che si intravede qui, carrozzabile, viario, anche pedonabile, servito da negozi soprattutto nella zona intorno alla piazza, e con delle case alte, con piccoli alloggi e dislocate tutte, come dire, a pettine, a spina di pesce. E subito dopo viene appunto costruito il rione delle semirurali con un concetto edilizio e costruttivo completamente opposto, nel senso che a regime questa soluzione ad alta densità abitativa non piace e ritiene che sia opportuno offrire a queste famiglie della bassa pianura, in una certa indigenza economica, che si spostano per fare gli operai, un luogo che sia il quanto più simile all'ambiente rurale da cui provengono. Quindi le case, o meglio le casette, vengono realizzate secondo tutto uno schema di piccole vie basate su incroci di tipo ortogonale, su cui si quasi un castrum romano, no? Su cui si suddividono piccole case fornite di quattro alloggi, due al piano terra, due al piano superiore, con due tipologie abitative, le due stanze o le tre stanze a seconda delle esigenze della famiglia, e circondate da un piccolo terreno con possibilità di realizzare un orto, sia per il motivo che dicevamo prima, motivi di ambientazione, sia anche perché si riteneva che gli affitti che comunque lo operaio doveva pagare pur diciamo all'associazione dell'edilizia popolare fascista nel quartiere Littorio fossero alti, e che in questo modo qua le famiglie potessero sostentarsi anche producendo un po' di frutta e un po' di verdura. In realtà le tappe nel percorso sono divise perché in mezzo c'è dell'altro, però mi sembrava opportuno metterle vicino nel PowerPoint perché facevano parte di un unico grande discorso. Il percorso si dipana e vuole passare anche su Ponte Palermo per dare un'occhiata al fiume Isarco, di cui io dal punto di vista naturalistico e paesaggistico so molto poco, se non che ci alloggia l'Airone Cinerino, cosa che mi ha sempre fatto molto piacere, soprattutto quando riesco a vederlo, ma ce lo spiegherà appunto il naturalista che sarà a disposizione quel giorno. E quello che vi posso dire brevemente dell'Isarco è che è un fiume che ha fortemente segnato la storia della città, sia in positivo sia in negativo. Diciamo subito le cose positive, che sono più brevi, e sono quelle legate al fatto che l'Isarco era fino all'Ottocento, o meglio fino all'avvento della ferrovia 1867-68, della ferrovia Brennero-Verona, era navigabile. Il fiume era navigabile, il porto di Bolzano era bronzolo, era navigabile prevalentemente con grandi zattere guidate da zattieri, ed era finalizzata soprattutto al trasporto di legname e di sale, ma soprattutto legname. Il legname non era un materiale secondario, perché era sia la materia prima per quanto riguardava le costruzioni, quindi per l'edilizia, sia la materia prima per quanto riguardava il riscaldamento, insomma la fonte di calore, e quindi diciamo era una materia prima di grandissimo valore. E l'aspetto negativo è invece quello per cui l'Isarco, anche il Taldera peraltro, poi quello è un altro discorso, era un fiume molto diverso da quello che noi conosciamo oggi, molto disordinato, fatto di tanti fiumi separati da isolotti in mezzo. Un fiume che è stato rettificato a fatica, a cominciare dal 600, che ha distrutto più volte il ponte sull'Isarco, che oggi noi chiamiamo Ponte Loreto, che non è quello che vediamo adesso, questo è il ponte Langer, quello coperto, che richiama l'antico ponte che era coperto, era anche il ponte più importante della città, perché era l'unico accesso da sud, ed era quindi un ponte dove venivano, diciamo, in uscita e in entrata passavano le merci e si pagava dazio. La rettifica del fiume ha comportato moltissimi lavori per quanto riguardava la costruzione, la ricostruzione e il rifacimento degli argini, fino, diciamo, alla correzione di queste grandi anse che rendevano il fiume estremamente pericoloso, perché molto diciamo, portato alle esondazioni, e quindi a una zona molto difficile da coltivare. Quindi Bolzano perdeva una grandissima quantità di terreni coltivabili, che ha cominciato a riguadagnare un pochino dal 700 in poi. Cerco di accelerare, abbiamo alcune foto in bianco e nero che sono di un autore poetico e diciamo molto legato al mondo dell'arte, che è Basilico, che ha fatto una mostra sui quartieri della città, in particolare su Don Bosco nel 2000, di cui esiste anche un catalogo. Adesso non stiamo noi qui a commentare l'aspetto estetico delle foto, ma ci tornano estremamente utili, perché l'architettura, soprattutto vista in bianco e nero, ci fa leggere in maniera più, come dire, più chiara e più nitida le linee costruttive e i corpi, diciamo il rapporto tra i corpi, tra i pieni e i vuoti. Che cosa succede molto brevemente? È difficile riassumere, perché sono una storia, oltre che essere interessantissima, estremamente complessa e lunga. Le semirurali cominciano una loro decadenza naturale a partire dagli anni 60 e poi in particolare 70, quando in sostanza una certa parte degli abitanti della provincia si oppone al piano regolatore, che prevedeva una nuova, grande e urgente espansione della città, espansione sempre molto difficile e complessa da noi, perché la città è ed era già allora stretta e chiusa tra i terreni coltivati preziosissimi e le montagne sulle cui pendici storicamente non si è mai costruito, per motivi diversi che non andiamo qui a sondare e su cui c'è anche una forte discussione al momento, per potersi espandere in verticale invece che in orizzontale. Una grande protesta che diceva: non possiamo andare avanti col metodo fascista dell'esproprio forzato dei terreni per fare nuove costruzioni. Ricostruiamo, ammoderniamo quello che già c'è. Dunque inizia il piano di demolizione e di evacuazione molto doloroso e molto controverso delle semirurali, al posto delle quali naturalmente in lotti successivi e in anni, decenni successivi, vengono costruite tutta una serie di zone abitative anche abbastanza diverse fra loro, che noi oggi andiamo a identificare con il quartiere Don Bosco e che va a confinare con il quartiere Europa, che negli stessi anni lega la storia di Bolzano alla sua grande espansione, ma con la differenza che la zona del quartiere Europa non era edificata o lo era in minima parte e quindi è andata in una naturale espansione laddove era possibile farlo nell'immediato, e quindi immediatamente si costruiscono le discussissime case di Viale Europa, dai Pifferi al Plaza, quello che volete, però è un quartiere che fin da subito funziona meglio, perché è un quartiere che presenta un tipo di edilizia che si mescola in maniera abbastanza armoniosa tra quella che è l'edilizia popolare, agevolata, che diventa poi IPEA successivamente, l'edilizia privata e gli edifici legati al terziario, cosa che non è avvenuta per tutta una serie di motivi, di clamorose sviste o perché il progetto era concettualmente diverso nei lotti di Don Bosco, andando a correggere questa mancanza poi successivamente, creando quindi delle aggregazioni ad altissima densità abitativa, questa sì che la possiamo chiamare così, per cui se nel quartiere delle semirurali noi avevamo 2000 abitanti nell'intero quadrato, qui abbiamo 1800 abitanti in un unico corpo, in un unico stato, con tutte le conseguenze che questo può avere. Allora, questo è il tentativo di Bolzano di creare una sua forte modernità edilizia. Non sono un architetto, quindi se sbaglio in qualche concetto vi prego di intervenire. La sua grande scommessa urbanistica legata alla modernità, portandosi dietro tutto quello che della modernità era il caposaldo, cioè le grandi dimensioni, la forte aggregazione abitativa, l'autosufficienza, cioè quello che ancora Le Corbusier aveva proposto come la cité, la maison cité, cioè questi grandi micro macro cosmi di condomini o di quartieri che portassero in sé abitazioni e servizi e giardini e parchi e asili e negozi, fungendo da città chiusa e finita, autonoma, quasi senza bisogno di soccorso altrui, con questa che è stata una grandissima idea, molto spesso mal spesa, non solo a Bolzano ma in tutte le città europee, creando questo grossissimo problema delle aggregazioni urbane brutte delle periferie, soprattutto nelle grandi metropoli. Per questo dico che ancora Bolzano è una periferia che baciamo per terra, per quello che abbiamo, per come si vive, per il verde che ha, per la quota di abitazioni. Detto questo, se no perdo il filo, andando a intervenire in maniera massiccia con un progetto vinto per quanto riguarda il primo lotto. Questo è il cosiddetto primo lotto delle semirurali, vinto da Carlo Aimonino, architetto romano, che avrà nel piano di attuazione anche la consulenza di due architetti locali che sono Roland Veneri e Oswald Zögler, che si occuperanno poi anche in successiva degli altri quartieri limitrofi in parte, e creando questo discussissimo gruppo di case. E cercando di ovviare alle forti proteste del quartiere, dando al grande edificio una forte colorazione che non è quella attuale, che è stata rifatta recentemente, una colorazione originaria più intensa soprattutto nei corpi laterali, che non ha fatto altro che peggiorare la situazione, perché eravamo ancora a un punto per cui erano meglio le case grigie che le case colorate, tutto sommato. E va detto però a favore di questo progetto che non è stato mai ultimato nel suo progetto esecutivo definitivo, ma ultimato solo in parte, e come tutte le cose parziali ovviamente non ha potuto funzionare perché è diventato un piccolo pezzo di una cosa grande che avrebbe dovuto essere completa di tutti quei servizi che qui sono venuti a mancare, diventando una, come posso dire, un grumo, insomma, di persone scontente perché venute via dalle loro case con l'orto, o figli delle persone scontente che si ritrovano ad abitare in condomini che creano questo fortissimo effetto estraniante. Questo è stato il problema. Tanto è vero che cosa, poi dopo è stato rifatto in questo cosiddetto giallo asburgico perché così sembrava di darle un maggiore legame con la storia locale, cosa assai buffa. Per contro, che cosa succede? Che il secondo lotto, allora, le case di Aimonino sono la parte nord di via Cagliari, le case detta Alcatraz, no? Questo per darvi l'idea di come è vissuta, no? Come è stata vissuta, anche perché questo enorme agglomerato ha un unico, come posso dire, un unico sotterraneo di garage. Voi pensate cosa possono essere 8-900 alloggi o 8-900 garage in un unico sotterraneo? Sono paurosissimi e lo sono ancora oggi. Per contro, il secondo lotto, per tutti questi motivi che abbiamo detto, viene vinto dai cosiddetti inglesi, ancora oggi le riconosciamo come le case degli inglesi, Darburn e Dark di Londra, che vincono proprio perché propongono un effetto urbanistico completamente diverso, cioè a fronte di una grande aggregazione propongono corti piccolissime di 6 metri per 6 con case che arrivano al massimo a 4 piani, che diciamo recuperano in espansione orizzontale invece che in verticale, dando questa sensazione di essere ancora in un luogo, come posso dire, a dimensione umana cosiddetta, e paradossalmente si ricrea, senza volerlo, presumo, la situazione che si era creata nel rapporto urbanistico-architettonico tra Rione Littorio e Rione Dux. Stessa cosa, troppo alte e troppo disumane a favore di case che hanno indubbiamente una loro dignità, però creano anche quella sorta di appendice anonima, simile un po' ai villaggi turistici dove ci sono queste stradine interne, le casette tutte uguali, le aiuole davanti e pochissimi elementi in realtà di identificazione, però piacciono moltissimo. Qui sono alcuni dettagli fatti da Gianni Gaetano, il nostro fotografo, e piacciono così tanto che a questi inglesi viene dato anche il terzo lotto, cioè il lotto, diciamo, adiacente, che doveva andare a unirsi a Piazza Don Bosco. Sto per concludere. A Piazza Don Bosco, e qui vediamo invece una foto di basilico estraniante, desolante, spopolata, che è esattamente la situazione che giustamente gli abitanti del quartiere Don Bosco lamentano, cioè quello di non avere mai più risolto il rapporto tra le vie nuovamente urbanizzate e riedificate e la piazza con la sua chiesa, nel senso che è stata fatta questa strada con una piazza retrostante, con una chiesa che è la chiesa per il gruppo linguistico tedesco, che va benissimo, ma non è possibile considerarlo un luogo di aggregazione comunitaria, con una piazza appunto che si affaccia all'interno e la chiesa di Don Bosco che rimane lì nulla facente, ancora in attesa di un completamento, cioè viene fatto una sorta di sbarramento di muro, di muraglia che viene a dividere, diciamo, le case nuove dalla piazza Don Bosco con la sua chiesa originaria e desolata. Questa è l'aspetto attuale di piazza Matteotti, così chiamata dopo la liberazione, che sta nella quarta tappa, quindi l'ho messa qui ma in realtà l'ho inserita nel discorso precedente. La quinta tappa, e qui ne so veramente poco, sarà una breve tappa davanti al Cristallo e alla chiesa di Regina Pacis, perché nel 49, quindi nel dopoguerra, quando diciamo ancora il rione delle semirurali viveva la sua vita e il quartiere si era espanso in maniera notevole anche con le costruzioni poi del dopoguerra, la curia di Trento ritiene che il quartiere abbia assolutamente bisogno di una parrocchia indipendente, quindi per il quartiere Europa e Novacella, e viene per questo diciamo incaricato l'architetto Kandelperger di costruire sia la chiesa che un cinema teatro. La cosa interessante è che, questo per dire anche la voglia di aggregazione, la spinta di vita, l'idea di quartiere e di città che si ha dopo la guerra, l'esigenza è tale che viene costruito prima il cinema e all'interno del cinema, questo nel 53-52, all'interno del cinema viene ricavata provvisoriamente, qualcuno forse se lo ricorda, io non lo so, o se qualcuno viene alla passeggiata magari lo potrà testimoniare, viene ricavata una saletta come luogo di culto in attesa che subito dopo e velocemente venisse costruita la chiesa di Regina Pacis, rinnovata nel, ve lo dico, 2005 mi sembra, con questi nuova decorazione cromatica, nuove vetrate, nuovi portali, e si conclude il percorso accanto a Regina Pacis, che è stata costruita proprio recuperando un pezzetto di vigneto degli agostiniani di Novacella, a cui ancora il terreno e questo insediamento appartengono, e così la finiamo di chiamarlo Conventino. Io stessa l'ho chiamato Conventino fino adesso, per capirci, perché convento non è e convento non è mai stato. Questa è una residenza rurale, cioè una casa, una residenza di campagna, quindi rustica, che contenesse le attrezzature per fare il vino e per lavorare il terreno vitivinicolo, che naturalmente in origine era molto più grande, era circa 8 ettari, comprendeva la via Novacella, comprendeva la via Dalmazia, comprendeva la zona della ex fiera, dove diciamo già c'era la fiera, adesso c'è il nuovo quartiere, e poi comprendeva in questo corpo centrale, che è questo qua, una sorta di casa padronale dove gli abati successivamente e i prelati, il primo Marcus Hauser, che ha fondato la residenza nel 1636, venivano a soggiornare nel periodo della vendemmia, godendosi la vendemmia e il primo vino che veniva poi prodotto e che viene prodotto tuttora. Infatti adesso non vorrei con questo richiamare masse solo legate al bicchiere di vino, ma Mariaheim, che è oggi sede di un'associazione culturale, offre poi ai visitatori un bicchiere del loro vino per concludere questa passeggiata, ma vi pregherei di non venire solo lì a bere il vino, anche se la cosa è assolutamente incontrollabile, anche se io ci sono dall'inizio alla fine, quindi vi posso controllare. È una residenza normalmente chiusa al pubblico, ma che offre, oltre ad avere una parte qui che noi leggiamo come chiesa, e invece è un corpo che contiene tre diverse cappelle su tre diversi livelli. La più antica, consacrata nel 1641, le due più recenti nel 1652, una rimasta proprio sotto livello, diventando nel tempo una cripta proprio per le continue esondazioni del fiume che hanno alzato con i detriti il livello del terreno, un bel campanile di Andrea Delai del 1680, ma soprattutto un sorprendente interno affrescato in più sale, allora nelle sale degli abati, con affreschi tardo-rinascimentali di tipo profano, con delle bellissime grottesche, in sostanza, che oltretutto sono una decorazione molto rara nelle nostre zone e soprattutto a Bolzano. E l'ambiente del vestibolo, e qui concludo, con un ciclo di affreschi di cui qui vedete un dettaglio, che raffigura l'intero ciclo della passione solo in forma simbolica, quindi solo attraverso oggetti, senza nemmeno un personaggio, con una chiarezza didattica, ma una, come dire, dei rimandi simbolici così particolari che lo rendono un unicum in tutta la regione. E anche questo è stato scoperto dalle scialbature, poi con i restauri degli anni 80, prima era sconosciuto, ed è diciamo un'occasione, a mio avviso, imperdibile. E diciamo, trovo per una volta anche faticoso sicuramente, ma anche un po' il nuovo di questa offerta, il poter inserire diciamo la storia ancora molto recente, anche disturbante se vogliamo, di alcune zone e di alcuni passaggi della città che faremo, che oltrepasseremo, e dei luoghi invece consacrati già dalla storia e dalla storia dell'arte come luoghi di grandissimo pregio. Ma non è che il pregio di Piazza Matteotti, della sua conformazione urbanistica, della storia che si porta dietro, o dei resti di Santa Maria in Augia, che sembrano essere addirittura preesistenti alla fondazione della città, credo che sia, come dire, un'offerta veramente ad ampio raggio, che non so se il quartiere Don Bosco si è mai reso conto di avere dentro di sé una portata storica e un'offerta di così grande valore. E quindi gli abitanti di Don Bosco in primis, ma tutta la città, sono tenuti ad amare questo quartiere tanto quanto è amato Gries, per i suoi sicuramente ottimi motivi, o tanto quanto è amato il Talvera o il centro storico per ovviamente i motivi della parte medievale della città. Vi ringrazio, spero di avervi invogliati o perlomeno di avervi suggerito che c'è molto da fare e molto da dire. Grazie. Torniamo indietro alla quinta tappa, dove si è parlato del cristallo, ma anche della parrocchia Regina Pacis. Vi leggo alcune pagine da una sorta di diario di Rosalba Rossi Corocker. Il libro si intitola Bolzano o Cara. Don Luciano era il giovane prete, alto e già un po' pingue, che ci insegnava religione alle elementari. Proveniva dalla città di Trento, zona che allora mi sembrava, non so perché, sempre un po' triste, statica e solida nelle secolari tradizioni contadine e cattoliche. Conobbi la famiglia di Don Luciano alcuni anni più tardi, in occasione di una gita con il coro della chiesa. La ricordo come un chiaro esempio dei valigiani trentini tipici di quegli anni. Gente severa, avvolta da secoli nel manto della chiesa, chiusa da tradizioni millenarie e forte nella capacità di creare le basi di un tranquillo ma solido benessere familiare. Gente che viveva in grandi, ruvide case, larghe ma ben piantate. Mandare un figlio a studiare al seminario, mantenendo così un collegamento diretto con quel Dio sempre serio e giudicante, era nei progetti e nei programmi generazionali di ogni famiglia benestante. Avere inoltre un rappresentante in quell'organizzazione, che da secoli rappresentava il potere vero a Trento e in tutta la provincia, era una delle missioni e delle massime, anzi, ambizioni per quelle famiglie, oneste e contadine. Fu perciò con autentico orgoglio che i familiari di Don Luciano, in occasione di quella memorabile gita del coro parrocchiale di Regina Pacis, ci rimpinzarono di ogni ben di Dio, salumi, formaggi, pane fresco e fragrante, un vinello che già allora era piacevole e sapiente, dimostrando coi fatti di essere ottimi, in ottimi rapporti non solo con il cielo, ma anche con la terra. L'ora di religione era quieta e rilassante, Don Luciano si vedeva tranquillo e sorridente, si sedeva sui nostri banchi, ogni tanto prendeva affettuosamente la mano di una di quelle bambine che lo ascoltavano con rapita, innocente attenzione e raccontava le sue storie. Era un mondo che ai nostri occhi appariva un mondo rassicurante, nonostante le disgrazie e gli inevitabili grandi e piccoli dispiaceri individuali. Gli interrogativi veri, profondi e per tanti versi devastanti sarebbero venuti più tardi, quando il contatto con il mondo che si trasformava con un'incredibile velocità avrebbe messo di fronte gli uni contro gli altri i sentimenti dolci, appaganti e semplici di un'infanzia vissuta senza fretta e la ragione fredda, esigente e complessa di una maturità a fatica ma effettivamente raggiunta. Venne anche per me il giorno della prima comunione, un avvento intimo e sociale nello stesso tempo. Le mie compagne ed io fummo preparate per mesi e mesi a questo incontro privilegiato con Gesù, un incontro al quale dovevamo arrivare pronte nella mente e nell'animo, pure nel corpo e nel cuore. Vissi intensamente quel periodo, piena com'ero di quella intima fede infantile che la mamma, nella sua semplicità, non aveva mai turbato con discorsi troppo complicati. Ricordo bene la sensazione di felicità e di leggerezza che provai uscendo la prima volta da quel confessionale di legno, qui parla anche della confessione, della preparazione. C'ero entrata a capochino, col mio velo di grande peccatrice sulla testa, pronta ad ammettere umilmente a me stessa, oltre che al prete seduto al buio dietro una grata, le mancanze che avevo commesso, i torti che avevo fatto agli altri e, cosa difficilissima da rilevare, lo scarso rispetto che potevo aver avuto verso il mio corpo e verso quello degli altri. Adesso salto a un'ultima parte perché vengono descritte anche le gite, la gioventù, insomma, i momenti trascorsi in compagnia. Gli inizi degli anni 60 furono anche degli anni dei primi innamoramenti, delle vaghe e inspiegabili sensazioni che la presenza del maschio provocava in me. Una creatura ancora misteriosa che non potevo naturalmente collocare fra gli affetti familiari, ma con la quale fin dall'inizio mi sentii stranamente a mio agio. Uscivo con i miei compagni del coro parrocchiale o con gli amici dei miei fratelli, naturalmente sempre in compagnia. Qualche domenica in montagna e dei nuovi meravigliosi festini resero i ragazzi protagonisti della mia vita e dei miei sogni. Tutto veniva giocato su un piano puramente sentimentale, la curiosità per quanto riguardava l'aspetto fisico della conoscenza non bussava ancora alla mia porta. Probabilmente mi sentivo su di un terreno incerto e non ero ancora sicura della mia femminilità. Qui chiudo, ma comunque ecco, diciamo, questo libro racconta tutte le esperienze di questa ragazza attraverso il quartiere e soprattutto ha come centro, diciamo, di socialità appunto la parrocchia e le attività della Regina Pacis. Se volete, grazie.